ragazze, buonasera. Prima di tutto benvenuti a tutti quanti. E prima di tutto, prima di prendere la parola io davvero, vorrei dare un piccolo spazio, non piccolo, grande, non è questione di misura, uno spazio in onore dell'editore Kella, che in questi anni della sua lavoro come editore ha portato nel nostro, in Italia in verità, ma comunque nel nostro territorio in particolare, i più grandi e i più importanti autori della lingua tedesca. E qui bisogna dirla come è veramente: i suoi libri sono sempre estremamente curati, estremamente interessanti. Questo poi è in particolare interessante, primo perché a me interessa la tematica, interessa l'autore, che è un mio caro amico, spero di poterlo dire, e poi interessa soprattutto il fatto della traduzione, che come vi dirò più avanti è splendida. Adesso vorrei, se permette, che l'editore Kella ci racconti che cos'è il programma, che è una cosa molto importante, il programma di questo traccio di anni dal 14 al 18, se permetti. Scusa, sì, certo, ma certo, hai bisogno della tua cartolina? No, sono a memoria. No, allora, innanzitutto grazie di essere qui, è la seconda volta che veniamo a Bolzano, una prima volta molti anni fa, all'inizio della nostra storia, quindi come dire, eravamo molto sconosciuti e ora invece ci torniamo in un'altra veste. E quindi grazie di essere qui. Introduco brevemente la collocazione che ha ai margini della ferita nel catalogo Keller. Il catalogo Keller ha due collane all'interno dei quali noi mettiamo romanzi e reportage che raccontano un po' l'Europa, che vengono da tutta l'Europa, l'Europa centrale, quella che un tempo era la Mitteleuropa, l'Europa dell'Est, ma anche Francia, Spagna, con alcune escursioni negli Stati Uniti e nel Sud America. Quest'anno però abbiamo ideato un piccolo progetto che non ha costituito una collana nuova, ma anzi si scioglie nelle due collane già esistenti, dedicato alla Grande Guerra. E abbiamo pensato però di non farlo proponendo romanzi già editi, storie sulla Grande Guerra, eccetera, ma cogliendo quello che era la nostra identità, cioè riflettere sul presente attraverso i romanzi di tutta Europa e soprattutto su quel presente che un po' deriva dagli eventi del 14 e 18. Cioè quei problemi rimasti ancora, diciamo, aperti, o comunque che hanno attraversato il Novecento e che ci vengono raccontati in romanzi che noi giudichiamo molto belli e che, come dire, vale la pena e la fatica di tradurre e divulgare in Italia. E il libro di Sepp Mal, il romanzo di Sepp Mal, I margini della ferita, apre questo ciclo nel quale noi vogliamo riflettere su varie cose, ad esempio perché un libro che racconta la questione, o comunque ha come sfondo, ecco, più che raccontare la questione, come sfondo l'Alto Adige, viene inserito in questo progetto che si chiama Confini, ma perché ovviamente l'Alto Adige, come il Trentino, come il Friuli Venezia Giulia, come la Slovenia, come tutti questi territori, un po' provengono da quegli eventi, no? Dalla dissoluzione dell'impero austro-ungarico, però hanno portato con sé qualcos'altro oltre alla politica, cioè l'evoluzione della lingua, l'incontro e lo scontro sui confini tra etnie diverse, le incomprensioni e le comprensioni, il dialogo e gli scontri, che secondo noi, come dire, sono alla base di storie sempre molto belle nella letteratura. E allora abbiamo pensato di aprire proprio con questo libro che ci è piaciuto molto. Il prossimo sarà di un'altra autrice di lingua tedesca, questa volta un po' più a est, stiamo parlando di Maya Haderlap, e con un romanzo che invece pesca nella storia della minoranza linguistica slovena. E poi dopo l'estate avremo invece un ungherese di lingua tedesca, Andrea Slatko, con un ripescaggio del 17 Uomini in guerra. E per 4-5 anni ogni anno noi proporremo tre titoli che raccontano questa Europa che viviamo adesso, quindi un'Europa viva, che però è nata da allora. Quindi un secolo che comunque è stato segnato da un evento drammatico, ma che poi adesso comunque ci regala delle storie da pubblicare, da ricordare. Ecco, tutto qui. Grazie. Allora, prima di tutto presento Sepp Mal, autore importantissimo. e non lo dico per plagieria, della nostra letteratura, che con Sabine Gruber, la Maria Brunner, la Fleisch, altri autori, è sicuramente, e ne dimenticherò uno, Renzo, dimentico senz'altro 100.000, ma non importa, di tutti quanti nel mio cuore comunque, che fanno veramente grande questo pezzettino di terra con libri e con pubblicazioni in lingua tedesca. Ora, a noi, come stava dicendo prima l'editore, a noi questo libro è particolarmente importante perché finalmente, e scusate il mio afflato un po' così di parte, perché finalmente un libro che tratta di un problema delicatissimo e difficilissimo, che è quello appunto, conseguenza, ragion per cui ben situato nella collana di cui parlava l'editore, parla di questa difficoltà di vivere una Heimat, patria, matria, con tutte le parole che voi volete, non Vaterland comunque, che non c'entra proprio per niente, questa vivere questa terra come propria o ex propria, o è stata propria e conquistata da, o forse non conquistata da, però non sotto il comune e abbastanza comune nel senso proprio della parola comune visione del fatto della cittadina di lingua tedesca che si innamora del cittadino italiano o viceversa, e in tutti questi a pressappoco pasticci di questa storia, che a me non piacciono mai perché non sono in fondo che una piccola punta dell'iceberg, e l'iceberg è abbastanza sostanzioso e importante, tanto che ha portato delle pacifiche in fondo popolazioni a non capirsi per colpa di tutti, veramente per colpa di tutti, a non capirsi, a non poter comunicare, a vivere in fondo un pezzo di terra che dovrebbe essere la Heimat, matria, patria per tutti quanti, e invece diventa una cosa ben altra. Per questo trovo importantissimo questo libro, perché questo libro di Sepp Mal è un libro che attraverso la chiave della letteratura racconta con una maniera estremamente profonda ma molto delicata, racconta di questa sofferenza, perché questa è una sofferenza quella che si vive in questo libro. Devo dire a questo proposito, con grandissimo piacere, che io ho letto il libro anche in tedesco, che è questo, che era uscito nel 2004, del 2004 per Heimon Verlag, ecco, ed è appunto tradotto adesso, uscito quest'anno per l'edizione Kella, la traduttrice di questo libro, cioè questo libro è tradotto dalla qui presente Sonia Sulza, e devo dire, e questa è una cosa molto importante, io faccio anche nei pasticci che fanno, nelle tante cose che faccio, il pasticcio non dovevo dirlo io, devono dire casomai gli altri, comunque nelle varie cose che faccio traduco anche, perciò ho in qualche modo la sensibilità, spero di averla, cerco di averla, la sensibilità alla traduzione, alla finezza della lingua, naturalmente anch'io, io faccio parte, sono una cittadina di Bolzano, e sottolineo la parola cittadina perché non sono un abitante di Bolzano, io sono una cittadina di Bolzano perché ho tutti i diritti di esserlo, ed è una cosa molto diversa, ecco, per generazioni e per tutto, comunque sono naturalmente ladina tedesca italiana tedesca ladina, come voi volete, in tutti i pasticci che voi volete unire di queste tre etnie, non solo, mia nonna era ungherese e mio nonno norvegese, punto basta, ecco, credo di essere un bel pasticcio in quanto tale. Comunque volevo dirvi, questo fatto di vivere in un mondo multilingue ti dà senz'altro, penso, la sensibilità e la possibilità di poter dire questo è un libro tradotto benissimo, è un libro che ha un effetto grandissimo come lingua, come tale, ma proprio sulla lingua mi sembrava di dover sottolineare quello che in fondo Sepp Mal sottolinea nel suo lavoro. Qui si tratta, la storia è di due gruppi familiari, un gruppo familiare di una famiglia con padre, madre, due figli, e situati tutti in una Bolzano che non era Bolzano, e qui devo sottolinearlo di nuovo, non è la Bolzano dove sono nata, cresciuta e vissuta io, è una Bolzano diversa, è una Bolzano di quartieri altri, quelli che nel suo libro Sepp Mal chiama Harlem e che noi abbiamo sempre detto Shanghai, scusami, ma è lo stesso, quello che vuoi va bene, comunque Harlem rende di più come estraneazione. Comunque, ecco, abitano in quartieri altri, quartieri che sono cresciuti dopo. Sottolineo che non, come moglie e madre di architetti, non è vero che sono stati buttati giù così come dici tu, non è vero, comunque pazienza, quella te la passo. Un po' di cattiveria ci vuole nella vita. Ecco, comunque in questi quartieri nuovi, e vivono una vita estremamente, come posso dire, alienata, in prossimità, in vicinanza, ma non in comunità, con il nuovo gruppo che è venuto ad abitare questa terra, che è il gruppo che è venuto naturalmente attraverso il discorso, e qui torniamo al discorso della guerra, al discorso del fatto venire molti cittadini di lingua italiana da altre province nella nostra zona, e questa non comprensione fra questi gruppi etnici. Dicevo, una famiglia abita sempre in questa zona, comunque padre, madre e due figli, e un'altra famiglia, un altro piccolo gruppo familiare, sono fratello e sorella, che scappati in qualche modo da un maso, vengono ad abitare a Bolzano perché qui pensano di poter vivere una vita loro. Ma perché? Alla base di tutto questo discorso, a mio parere, c'è, al margine della ferita, al margine di questo discorso, c'è un discorso essenziale, che è quello della lingua. Io avevo cominciato una piccola riflessione sul lavoro di Sepp Mal riferendomi a Canetti con il discorso della lingua tagliata, perché è veramente sulla lingua, la lingua come sprache, come proprio in questo senso, ma anche come zunghe, come lingua nel senso fisico, senso materiale della parola, che si svolge il discorso. La seconda parte dei due protagonisti, vi dicevo, è sorella e fratello e sorella, e il fratello ha questo grosso difetto, ha questa balbuzia, questa incapacità di parlare, così che la sorella diventa la portatrice della lingua del fratello, quella che per lui parla. E guardate che di nuovo questa metafora, secondo me, è importantissima, perché moltissima della nostra gente ha dovuto usare altri per parlare delle proprie cose, ha dovuto usare altri per parlare la propria lingua. E anche il fatto terribile, condannabile, con tutti, senza dubbio su questo aspetto, anche degli attentati dei quali si parla, dipende da questo fatto di dover usare altri per parlare della propria cosa, per usare altri e per usare rumori, suoni, bombe, boom, per parlare delle proprie cose. E questo secondo me è un dato estremamente importante. Però prima di cominciare, cioè di andare avanti con questo discorso, troverei importante, io spero che alcuni di voi capiscano la lingua tedesca, di leggere una piccola parte iniziale di questo libro in tedesco, che poi subito la Sonia leggerà in italiano, anche per darvi la musicalità del discorso nelle due lingue, anche se non la capite è lo stesso, ma dovete sentire che la traduzione è anche questo. Tradurre vuol dire anche portare lo stesso suono, cioè cercare di portare lo stesso suono, perché le lingue sono diverse e sono diversi i suoni, però portare almeno quello che dal fondo dello stomaco, dal fondo del cuore viene su quando si sente una parola, che cosa vuol dire. Non ho capito niente, ma so che cosa vuol dire, ecco, questo era il discorso. Adesso se vuoi leggere, per favore. Grazie, scusa, sì. Grazie, buona Maria. Ho detto pochissimo di Sepp Mal, non so cosa vuol dire di più, ma è qua. È sicuramente per me, e questo è un riferimento personale, ve lo lasci dire, prego, il più grande dei nostri scrittori di lingua tedesca. Basta. Scusate, ognuno ha le sue passioni. Ah, posso averle, però. Ecco. Sì, allora cominciamo. Io, Pite. Scusa. 4, 3. Dimmi. Totta. Vuoi questo pezzo di carta? Ti serve? Un attimo, scusate. No, ma sei sola? Sì, qui sono tutti e due. Tutti e due, d'accordo. 3. 19. Il libro comincia proprio con il discorso di questo ragazzo, al quale viene portato via, praticamente lui non capisce perché, viene portato via il padre, che viene imprigionato, perché viene accusato. È una storia terribile, scusate due parole ancora, ma è una storia terribile, perché il padre viene accusato di essere un attentatore. E poi nel corso del tempo viene portato in prigione, loro lo vanno a trovare, eccetera, eccetera, viene liberato. Però rimane, e questo secondo me di nuovo la incapacità di parlare, di discutere, viene in fondo accusato dai suoi amici e compagni, dai suoi conterranei, forse, non si sa se lo è, forse, perché è sempre su questa linea sottilissima, è sempre sul margine di questa ferita, mai all'interno che si va, forse è stato un delatore, forse, io non credo e non crede neanche l'autore, però forse, e si ammazza il padre. Comunque, grazie, basta, adesso ci sono davvero. Allora, cominciamo con i tezzoni. I tezzoni, d'accordo. È un capitolo dove il giovane Paul, un dodicenne, scopre che suo padre non c'è più. Sein Vater habe sich in Luft aufgelöst, sagte der Junge von einem Tag auf den anderen. Eines Morgens, als er schlaftrunken noch nach unten kam, war es eben passiert. Die Schranktüren in der Küche standen weit aufgerissen, die Schubladen lagen auf dem Fußboden verstreut und mitten im Durcheinander kniete seine Mutter. Er wird gleich wiederkommen, war das Erste, was sie sagte. Sie kniete da, verwirrt und fassungslos, als wäre sie eines der aus dem Kästen geworfenen Dinge. Er kommt gleich wieder, wiederholte sie mit tonloser Stimme, und auch seine Schwester hörte den ganzen Vormittag nicht auf, davon zu reden. Er kommt bald wieder, sagte sie, morgen, übermorgen ganz bestimmt. Aber der Vater kam nicht mehr. An diesem Tag nicht und am nächsten auch nicht. Sie räumten die Wohnung auf, setzten die Schubladen wieder ein und warteten darauf, dass es an der Haustür klingelte oder sich der Schlüssel im Türschloss drehte, Vaters Schlüssel. Der Junge kroch auf dem Fußboden herum, reichte seiner Mutter die Lebensmittel, Besteckteile und Papiere, die unter die Kästen gerutscht waren, und seine Schwester ging mit dem Besen von einem Zimmer ins andere. Darüber vergingen die Wochen, und das Einzige, was kam, war ein Brief, den ein Rechtsanwalt vorbeibrachte. Seit jenem Morgen, sagte der Junge, habe er den Eindruck, dass seine Mutter anders rieche. Es sei ein Duft, der einen an helle Frühlingstage erinnere, an denen der Schnee draußen vor den Fenstern dahinschmilzt, und irgendetwas schien er auch von den durchsichtig blauen Flakons zu haben, die nebeneinander aufgereiht im Bad standen und in denen seine Mutter das Bleichmittel für ihre Haare aufbewahrte. Es war ein Geruch, der etwas Leichtes hatte und Flüchtiges, und irgendwann war er sich sicher, dass es der Duft ihrer Tränen war und nichts anderes. Il ragazzo disse che suo padre si era dissolto nel nulla così, da un giorno all'altro. Una mattina, mentre scendeva di sotto ancora assonnato, vide ciò che era appena successo. Le ante della credenza in cucina erano spalancate, i cassetti buttati per terra, e in mezzo a tutta quella confusione, in ginocchio, c'era sua madre. Tornerà presto, fu la prima cosa che gli disse. Stava in ginocchio, confusa e scombinata, come fosse stata uno degli oggetti gettati fuori dai cassetti. Tornerà presto, ripeteva con voce atona. E anche sua sorella continuò a ripeterlo per tutta la mattina. Ritornerà presto, diceva. Domani, al più tardi dopodomani. Ma papà non tornò più. Non tornò né quel giorno né il giorno seguente. Riordinarono l'appartamento, rimisero a posto i cassetti e aspettarono. Aspettavano che suonasse il campanello di casa o che nella serratura girasse una chiave, la chiave di papà. Il ragazzino razzolò per terra, allungando alla madre le provviste, le posate e le carte che erano scivolate sotto i mobili, mentre sua sorella passava la scopa in ogni stanza. Intanto trascorrevano le settimane e l'unica cosa che arrivò fu una lettera recapitata da un avvocato. Il ragazzo disse che da quella mattina aveva avuto l'impressione che sua madre avesse un odore diverso. Era un profumo che ricordava le chiare giornate di primavera in cui la neve si scioglie lenta davanti alle finestre, un profumo che sembrava avere anche qualcosa di quei flaconi blu trasparenti disposti uno accanto all'altro in bagno, nei quali sua madre conservava l'acqua ossigenata per schiarire i capelli. Un odore leggero e fuggevole, e ci fu un momento in cui si convinse che non poteva che essere l'odore delle sue lacrime, delle lacrime di sua madre. Ecco, avete sentito questa, sì, questa veramente questa traduzione, questa riportare da una lingua all'altra, perché tradurre vuol dire in definitiva questo, queste sensazioni. E qui bellissima questa parte seconda, nella quale appunto c'è il grande pianto, il pianto della madre, e questa lettura del ragazzo che legge queste lacrime con questi vocabili, con queste parole che gli ricordano veramente, in fondo le lacrime hanno veramente questo odore. E qui di nuovo il ragazzo che si presenta, e questo è soltanto l'inizio, è un ragazzo comune, un ragazzino di 12 anni che va a scuola, ha un amico che si chiama Herbert, col quale parla eccetera, e che vive la sua vita di ragazzino fra il quartiere, il gioco del calcio, le prime sensazioni, i primi, se voi volete chiamare, amori, ecco, si innamora quasi, ha una piccola passioncella per la figlia del suo allenatore, che appunto è una ragazzina italiana in questo caso, è detto così, ma senza nessun riferimento particolare. Ecco, e questo, qui c'è anche di nuovo un'altra delle parti molto interessanti, come in fondo questo tentativo del gioco, e qui si parla con il gioco del calcio, questo tentativo del gioco come possibilità, almeno io lo leggo così, possibilità di trovare un'unione, un tentativo di giocare insieme, di essere di nuovo qualcuno insieme con altri. E qui naturalmente il gioco sono gli anni 60, 61, questi anni, dove naturalmente il grande campione del gioco è Mazzola, e il desiderio più grande di questi ragazzini è quello di, e lo dirà poi nel libro, di quando andranno a trovare il padre che è imprigionato a Milano, che è in prigione a Milano, di trovarsi per caso sull'autobus vicino a Mazzola. Ecco, questo sogno da ragazzino, ma questa descrizione molto particolare anche del bambino nella sua vita comune, nella sua vita di ragazzino, che ha questa grandissima mancanza, il padre che è stato incarcerato, che però in fondo almeno non lo sgrida, insomma non è tutti i giorni a dirgli su qualche cosa, però in questa sensazione, con questa descrizione sottilissima, sempre, e ripeto, il titolo è bellissimo, è sempre al margine di questa enorme ferita che non viene sciolta, che non viene letta. E su un altro piccolissimo pezzo in italiano, una parte sul calcio, per piacere, ma voi non avete il libro, beh comunque, capitolo 14. Paul premette la faccia al vetro della finestra per riuscire a vedere meglio attraverso i buchi della stoffa pesante della tenda. A giudicare dalla divisa, Salvatore doveva essere uno dei militari che stavano assolvendo il servizio militare nella caserma della polizia. Era piccolo e grasso, e sotto le ascelle gli si erano formate due macchie scure di sudore. Nel reclinare la testa, Maria toccava con la tempia proprio quella parte umida e luccicante della sua camicia, e Paul immaginò che i suoi capelli il giorno seguente avrebbero puzzato di sudore. Non poteva di certo immaginare che sua sorella passasse le serate con un soldato italiano sudaticcio. Uscendo di casa, ci urlava in cucina che stava solo andando da un'amica per via di certi compiti e che sarebbe tornata subito. Ma probabilmente davanti a casa la stava aspettando Salvatore, che con le sue gambette corte camminava avanti e indietro. Potrebbero fare una bella mucchiata adesso in caserma, disse Herbert. Mia sorella, la tua, Enrico e quello là. Maria girava il bicchiere tra le dita, poi si fece versare e pagare da bere. Si alzò, cominciò a ballare davanti al jukebox e il soldato lasciò il denaro sul tavolino. Ma lei sembrava voler rimanere ancora un po', forse, chissà, per sentire la canzone fino alla fine. Paul vide i gesti di diniego di lei e il disappunto di Salvatore. Teneva in mano il cappotto di Maria, fissandole le gambe che leggere si muovevano al ritmo della musica. I ragazzi aspettarono finché i due furono usciti. Paul si piazzò davanti a Herbert, in modo che Maria non potesse non vederlo. Un rapido bagliore attraversò lo sguardo di sua sorella quando lo vide, quando si accorse di lui. Poi buttò indietro la testa e si girò dall'altra parte. con il braccio cinse il fianco del soldato, spinse le dita sotto la giacca della divisa e le infilò nella cintura. Passò davanti a Paul senza degnarlo di uno sguardo, risalì la strada e da dietro sembrava andare con il suo soldato dritta incontro alla luna piena che pendeva bassa dietro le case. Paul era già a letto quando sua sorella tornò a casa. Spalancò la porta e lo fissò. «Tu non hai visto niente. Guai a te se dici una sola parola!» Poi si girò e prima di chiudere la porta gli gettò un'altra occhiataccia per fargli capire di che cosa sarebbe stata capace se lui avesse rivelato il suo segreto. «Brutta idiota!» disse Paul mostrandole la lingua. Ma Maria se n'era già andata. La sentì trafficare nella sua stanza, mettere uno dei suoi dischi e poi il ritmo dei bassi penetrò cupo attraverso la parete che separava le loro camere. Da quando aveva il giradischi se ne stava a letto con gli occhi chiusi per ore e ore, interi pomeriggi, con le copertine dei dischi accanto a sé, l'apparecchio aperto, ad ascoltare canzoni italiane. Da quando aveva il giradischi voleva anche che lui la chiamasse Mary. Ecco, lascia pure adesso, credo che volevi, ce n'è un altro pezzo che volevi leggere di questa parte qui? No, sul calcio, era per, io volevo dopo, sì. Sul calcio. E dopo, allora vai, vai, tranquilla. Ecco, adesso arriva il calcio. Ecco, sì. Paul si girò e nel tirare la coperta più sopra la testa per potersi addormentare, gli venne in mente Sandro Mazzola. Era un artista del dribbling e il miglior centrocampista del mondo. Quando faceva il suo ingresso nello stadio di San Siro, il pubblico si alzava in piedi e gli urlava che era il migliore. Talvolta facevano tirare il calcio d'inizio a un orfano della città. Lo aveva visto Herbert alla televisione. Mazzola lo teneva per mano, correvano fino al centrocampo e al fischio dell'arbitro il bambino poteva calciare la palla e passarla a un giocatore. Infine qualcuno lo accompagnava oltre la linea del campo da gioco dove poteva rimanere a guardare la partita. «Se vivessi a Milano, pensò Paul, potrebbe succedere anche a me, solo che lui non era un vero e proprio orfano». La luna piena disegnò un rettangolo luminoso sulla parete della sua stanza. Sembrava quasi un campo da calcio illuminato. Paul si muoveva inquieto nel letto al pensiero di come avrebbe potuto passare la palla del calcio d'inizio. Di piatto, con il piede interno o forse anche di collo. Tutto tranne che di punta, che era da imbecilli. Quando si svegliò per andare in bagno, il campo di luna si era spostato e si era esteso al tappeto fin sotto il suo letto. A piedi nudi attraversò il prato lucente dello stadio di San Siro. Il corridoio era buio, solo in fondo, da sotto la porta della camera di mamma, passava una striscia di luce, quindi era ancora sveglia. Cercò di non far rumore e passò in punta di piedi davanti alla porta. Sentì la sua voce. Qui naturalmente in maniera estremamente importante, se voi l'avete notato, c'è la storia di questa Maria che vuole farsi chiamare Mary, appunto, che ha questa piccola storia con questo soldato italiano e di contrappunto il discorso di Paul che con il soldato italiano naturalmente non è assolutamente contento di questo passaggio della sorella, però anche lui in fondo ha un eroe, piccolo eroe, per lui un grande eroe, che è un grande cacciatore, un italiano che sta a Milano, eccetera. Cioè questo passaggio così io trovo estremamente importante da nella mente di questo ragazzino, di come il tentativo di situare le situazioni, che quello che accade, che accade tutti i giorni, questa comunità della sorella con questo italiano che non gli va bene, perché poi anche un italiano con il sudore sotto le spalle, una strana storia, uno strano stereotipo dell'italiano in fondo messo qui, e poi quest'altro italiano famoso che è appunto Mazzola, al quale lui si sente vicinissimo perché ama il calcio, e poi perché appunto c'è questo piccolo accenno del fatto che fa venire un bambino a tirare il primo calcio, e questo bambino è un orfano, lui è quasi orfano, lui si sente quasi orfano. Di nuovo importantissimo questo passaggio, il passaggio che forse a me nel riguardo alla figura di Paolo è piaciuto di più è quel suo misurare con il, se tu lo trovi, adesso io l'ho segnato e poi mi sono perso il segno, per questo misurare la distanza che da lui a suo padre, la distanza da lui a suo padre in centimetri, proprio con il piccolo centimetro sta facendo i compiti, lui misura e l'abbiamo trovato, capitolo 10, eccolo, ce l'ho già la qui fine, anche io, la sì. fine, proprio la sì. fine. Allora veniamo subito, che magari, eccolo qua, ma porca miseria, guarda, basta cercare per non trovare, eccolo qua. Dunque. Sì, qua, Milano. Sì. Sì. Forse è meglio così, penso Paolo, così papà, dunque. Suo padre si trovava a 20 milioni di centimetri di distanza, ma prima dice, Paul prese la cartella e sparì, in cucina tirò fuori dalla borsa la cartina e calcolò la distanza tra la città in cui abitavano e quella in cui si trovava suo padre. Lo avevano trasferito in un altro carcere, in un'altra città ancora più lontana, e a Milano. Paul poggiò il righello sulla cartina e moltiplicò i centimetri per la cifra della scala graduata in fondo a sinistra. Suo padre si trovava a 20 milioni di centimetri di distanza. Ecco, allora questa distanza calcolata in 20 milioni di centimetri a me è sembrata estremamente importante proprio nella crescita del ragazzino. E poi ci sono moltissimi altri pezzi nel quale io mi sono sentita veramente profondamente colpita. Per esempio il passaggio terrificante di quando Paolo e l'amico, andando a scuola, si accorgono, trovano, vedono in fondo la morte dell'altro. Abbiamo parlato adesso di un gruppo di familiari, ne parleremo poi dell'altro gruppo subito dopo, dell'altro ragazzo, di questo Alex, che ovviamente viene dilaniato dalla bomba che lui stesso costruisce, e adesso ve lo racconteremo e ve lo facciamo vedere, e poi torna a casa e si trova terrificantemente. E questo per me è stata una cosa che mi ha preso veramente lo stomaco. Si trova terrificantemente a dover mangiare ossobuco davanti a sua madre, che glielo fa mangiare a tutti i costi, e lui non riesce a dimenticare la tragedia di questo disfacimento di un corpo. C'entra e non c'entra, ma pensate all'immagine che Sepp Mal riesce a dare di questo bambino che vive una vita estremamente normale, in fondo, in un mondo che normale non è. Ecco. Adesso pensavamo di arrivare al secondo gruppo. Abbiamo detto che sono due gruppi familiari. Questo è il primo gruppo, Paola, la sorella, il papà e la mamma, il papà in prigione e la madre che piange tutte le sue lacrime. E in questo proprio cercare di sciogliere il dolore nelle lacrime, di sfarsi, di diventare lacrima, è anche una parte importantissima. La seconda parte della famiglia, la seconda famiglia di cui si tratta, è la famiglia di questi due ragazzi, sono fratello e sorella, che vengono via dal Maso. Perché vengono via dal Maso? Proprio a causa di questa lingua tagliata, di questa incapacità di pronunciare le parole che ha il ragazzo, e che Alex, e che naturalmente la sorella Johanna continua a tradurre e a difendere, e come vi dicevo prima a trasportare. Adesso vanno dal paese, dal Maso in città, e lì cercano di ricostruirsi una vita. Johanna studia, fa l'infermiera, comunque impara a fare l'infermiera, e Alex, che non è capace di parlare, di questo non saper parlare penso che sia il caso che leggiamo un pezzettino subito dopo. E Alex è bravissimo naturalmente con le mani, lui è capace di fare delle cose meravigliose ed è un grandissimo, è un bravo operaio, va a lavorare come operaio, e come operaio è un elettricista o un elettrotecnico, comunque lavora in fabbrica, e lì si trova anche bene, perché lì trova improvvisamente che la sua non lingua diventa la lingua del suo fare, delle cose che fa, e queste cose che fa, cioè la sua capacità di usare delle elettricità in qualche modo, lo spinge nelle braccia, è detto male, ma comunque lo spinge in una compagnia di persone che sono il suo datore di lavoro, i suoi amici di lavoro, che lo convincono di far sentire quello che vi dicevo prima, di far sentire la sua voce in modo diverso. Ecco, forse questa parola, qualche parola vuoi leggerla sulla lingua. Ecco, la voce narrante, qual è che ci racconta la storia sua, di questa sorella e con il fratello, è proprio quella di Johanna, che quindi dà voce al racconto, così come nel racconto è anche la voce del fratello che appunto ha questo problema di balbuzia. Qualche volta incespico anch'io, proprio come lui. Se qualcuno al lavoro per strada mi chiede di lui, qualcuno che non sa nulla dell'accaduto, le parole non oltrepassano le labbra, si smorzano, si attorcigliano, e allora indico un punto, oltre le case, verso il pendio, là dove i sentieri si inerpicano verso il limitare del bosco. È un nascondiglio all'ombra del monte, un luogo dove la neve resta più a lungo che altrove. Gli avrei dovuto dare abiti più caldi, scarpe più robuste. Alle volte mi chiedo come io abbia potuto essere così sconsiderata. Poi a casa tiro fuori la sua carta d'identità dal cassetto, là dove era rimasta, la apro e la sistemo accanto alla mia. Osservo la sua foto, sussurro i nostri nomi fino a fonderli in un unico suono. Alex e Johanna, mormoro, fratello e sorella, leggo ad alta voce le nostre date di nascita, come temessi di dimenticarle. Se si esce dalla statale e si svolta verso il centro, si passa davanti alle case in cui abbiamo abitato insieme, mostri di cemento grigio che dall'asfalto si stagliano tutti uguali contro il cielo. Un quartiere nuovo progettato in fretta e furia, su un qualsiasi tavolo da disegno. Oggi so che quelle case non erano destinate a noi, ma ad altri, agli immigrati del sud, che arrivarono da un giorno all'altro prendendo possesso delle case sopra, accanto e sotto di noi e riempiendole dei suoni della loro lingua, una lingua che non capivo. Forse ci saremmo dovuti ritrasferire subito altrove, ripeto a me stessa, e allora tutto questo non sarebbe successo. Erika scaccia le frasi di questo tipo con un gesto della mano e dice: non possiamo sfuggire al nostro destino, ci raggiungerebbe comunque e dovunque. E anche che dovevo davvero finirla e mettermi il cuore in pace. Forse ha ragione. Erika è un'amica, scusate, era solo per... è la figlia del datore, cioè di uno dei datori di lavoro, non si può dire, ma comunque del ragazzo, ed è un'amica, scusate. All'inizio me ne sarei voluta andare subito, tornare a casa o trasferirmi in un'altra città, ma mio fratello non ne voleva sapere. Si stringeva nelle spalle e non poteva neppure sentirne parlare. «Che cosa pensi di trovare qui?» gli dicevo. E lui reagiva come se gli avessi voluto male, come intendessi cacciarlo dal paese dei balocchi, dal paradiso, quel paradiso nel quale invece lui riusciva a stare e finalmente a vivere. Forse perché qui si sentiva un'altra persona, non più il balbuziente, come a casa nostra, ma un altro, uno che non doveva soffrire le pene dell'inferno a ogni parola, subire una disfatta a ogni frase. Era sempre stato così, sin da quando era bambino. La lingua si bloccava, le sillabe si inceppavano, si incagliavano da qualche parte. E Alex prendeva sempre più le distanze dalle sue parole, da noi, rifugiandosi in un silenzio ostinato e dal quale solo le botte di papà riuscivano a stanarlo. Non sono mai riuscita a sopportare quel gorgoglio intermittente di sillabe, quel riprendere convulsamente fiato per poi ricominciare a gola spalancata con un altro tentativo e un altro ancora e ancora, sperando di riuscire a superare il primo ostacolo e poi il fallimento, la resa, la bocca aperta dalla quale ormai non usciva che aria di sconfitta. Potevo fuggire o scegliere di parlare al suo posto, e io parlai al suo posto, sempre e solo per lui. Non ti lascio solo, gli dissi, vieni via con me e basta, via dalla casa paterna, dalla casa delle balbuzie, dove ogni frase doveva essere pensata due volte, una volta da lui e una da me. Benissimo. Ecco, qui appunto abbiamo questo primo segno di questa grandissima difficoltà. E un altro parte ancora, e quello mi sembra bellissimo anche riferito al titolo del libro, sono queste ferite, questi segni, questi margini della ferita che vengono letti dall'autore, da Sepp, anche nella natura stessa. La stessa natura ha questa stessa difficoltà. E dice, questo ragazzo intaglia con il suo coltellino, intaglia praticamente nelle sue gite, nei suoi passaggi, intaglia gli alberi e lascia queste ferite, e la ragazza Johanna, della quale appunto dicevamo che era protagonista e il narradio narrante, dice si rimargineranno o no. Ecco, ancora brevissimamente, se lo leggi in tedesco e poi lo leggiamo in italiano. Va bene. il capitolo 19. Dimmi. Qua c'è questo nome Wundrender, sì, che prima non c'era, anche il libro non si doveva chiamare così. Questo è molto interessante, dici? Ecco. Durante tutta la stesura ho pensato a un altro titolo che doveva essere New York, proprio come la città, ma detto come lo dicono, forse dice forse qualcuno che non sa l'inglese, New York. Poi soltanto l'editore Aimon ha detto che questo secondo lui non può andare bene, e poi sono venuto a questo titolo, Wundrender, cioè margine della ferita. Sì, che proprio a me dà proprio questa immagine che tu hai dell'albero, del tagliarlo, dell'incisa nell'albero, è proprio quella la ferita della quale, l'immagine che mi viene in mente. Sì. Sonntags kam Erika und brachte den Geruch von Blumen mit und frischer Wäsche. Ich tauchte ins Meer ihrer Wörter ein und die Nachmittage vergingen wie im Flug. Wir hätten Alex einfach mitnehmen sollen auf unsere Spaziergänge. Ihm seine Schuhe hinstellen, seine Arme in die Jacke zwängen und hinaus. Aber er blieb über seinen Blättern und Büchern und auch Erika konnte ihn nicht bewegen. Nur einmal, als Erikas Vater mitkam, stand er von seinem Tisch auf, fast widerwillig. Ein Ausflug, redeten wir auf ihn ein, alle gemeinsam, wo doch Sonntag sei und Sonne und Sommer. Erika war neugierig, wollte endlich sehen, wo wir aufgewachsen waren, Alex und ich, unser Haus, Wälder und Wiesen. Sie zerrte Alex ins Auto und dann, am Fuß des Hanges, legte Herr Kammerer seinen Arm um Alex' Schulter und zog ihn mit den Waldweg empor. Unseren Schulweg von früher, wo Alex Bäume standen am Wegrand, die Eschen, die Kindheitsbäume, deren Rinde Alex Messer bearbeitet hatte auf dem Heimweg, wieder und immer wieder. Als hätten die Wörter, die ihm quer in seiner Kehle steckten, ihren Weg gesucht über seine Hand, die das Messer hielt. Er war immer vorausgelaufen, dann hatte ich ihn gefunden, den Bubenkörper an einen Baumstamm gepresst, das Messer an der Rinde und die Späne flogen. Schulwörter, Schulsätze und immer wieder seinen Namen. Alex, Alex, Alex. Ich riss ihn fort, keuchend vor Unverständnis. Irgendwann würde der Waldfrevel auffliegen und Vater drohend seinen Arm heben. Hi. Di domenica arrivava Erika. E se vuoi, sì, vai, vedi. No. Benissimo, pensavo tu andassi avanti. Ah, come? Meglio, sì, forse, okay. Sì. Ma Alex... abbastanza. Ma Alex non ne aveva mai abbastanza. Scappava, il suo respiro volava e quando lo trovavo aveva già intagliato un'altra parola e la corteccia sanguinava. Chissà se ha un coltello con sé adesso che sta salendo con Kammerer. Erika sfarfalla di qua e di là, il bosco la rende felice, vede la luce che penetra tra il fogliame, fiori nascosti sotto i cespugli che io non avrei notato e che lei invece a un tratto tiene in mano con le dita gialle di polline. Cerco gli alberi di Alex, cerco i segni dei tagli, voglio sapere se le ferite si sono rimarginate. I margini delle ferite si sono richiusi, ricoperti da protuberanze nodose, ma ne scopro una le cui lettere sembrano essere state intagliate da poco. Quanto tempo dovrà passare ancora, mi chiedo, quanti mesi, quanti anni? E poi Erika mi chiama, mi mostra le dita e annovera i nomi dei fiori che ha trovato. Siamo rimasti un po' indietro e una volta oltrepassata la cima, là dove si diradano gli alberi, vediamo davanti a noi i soldati e in mezzo a loro i nostri uomini. Oddio, dice Erika, sbiancando. Ecco, qui naturalmente quella parte della quale io mi sono veramente innamorata è questa. Allora, lui non ha la capacità di parola e qui usa come prima arma per intagliare le sue parole, per rendere le sue parole carne degli alberi in questo caso, ma carne viva, usa il coltello, userà poi la dinamite. Ecco, cioè questo passaggio mi è sembrato estremamente importante anche nell'economia del discorso, ma anche questa osservazione straordinaria che dice i margini delle ferite si sono rinchiusi, tornano a vedere questo posto che è vicino alla casa dove loro hanno il maso i due fratelli, che sono stati una gita domenicale questa, come avete sentito, e ci sono rinchiusi, ricoperti da protuberanze nodose, ma ne scopre una le cui lettere sembrano essere intagliate da poco, Quanto tempo dovrà passare ancora, mi chiedo, quanti mesi, quanti anni? E poi Erika mi chiama, mi mostra l'ita e annovera i nomi dei fiori che ha trovato. Quanto tempo, quanti anni ancora? Perché queste ferite veramente si rimarginano. Ecco, di nuovo questo discorso importantissimo. E qui, naturalmente, il libro va avanti con questa storia. Va avanti con questa storia, queste due storie parallele, la storia della famiglia di Paul, di suo padre, che poi viene, naturalmente, viene rilasciato, torna a casa e fa una vita da, di nuovo, da estraneo, fa una vita da uno che non sa più tornare nella normalità, e finisce la storia, finisce tragicamente, e qui di nuovo un intreccio fra i vari protagonisti. E Johanna, che passeggiando col cane trova per terra il corpo del padre, il padre di Paul, che si è buttato dal tetto, dal balcone comunque, di una della casa. Non solo, ma questo libro, ancora in tutti questi intrecci che sono infiniti e che vi lascio la gioia di leggere, perché vi auguro veramente di prenderlo e di leggerlo tutto. Dicevo ancora una piccola cosa: questo Cameron è questo datore di lavoro, cioè quello che lo ha ingaggiato. Erika, vi ho detto, è la figlia di questo, ed è in fondo l'innamorata, anche senza un domani, è l'innamorata di Alex. E questa vita così parallela e vicina fra tutte queste persone. Ma la storia, in definitiva, secondo me è una delle parti anche importantissime di questo libro, e qui arriverei alla fine per poi fare delle domande in caso, e chiedere a voi se avete delle domande da fare. La storia della fine di questo libro. La fine di questo libro, di nuovo, succede che il ragazzino, che Paul, per una distrazione, chiamiamola tale, finisce sotto una macchina e finisce in ospedale. Chi lo cura è Johanna, la sorella di Alex, che Alex ormai è morto, e lo cura in una maniera deliziosa e gli dà di nuovo Johanna è di nuovo quella che dà la voce a qualcuno, e dà la voce a questo ragazzino che va a trovarla. Lei è un'infermiera di notte, va a trovarla, beve il suo tè, mangia le sue, quello che lei si porta, e chiacchierano un po', almeno un po', fra di loro. Ecco, forse questa ultima parte, per piacere Sonia, se leggi almeno un pezzettino del 42esimo capitolo, che non era in ding. Volentieri, ecco, ma poi... Però devo anche aggiungere che io lascerei quasi la gioia ai lettori di leggere quest'ultima parte. Ma leggi almeno un pezzettino. Davvero, perché è molto commovente. Sì, certo. Quasi non vorrei rubare. No, non usarlo, non lo facciamo. Davvero? Torniamo indietro. Perché è davvero. Basta, niente più. Ecco. Scusa. No, anzi, mi fa piacere. È una conversazione questa. Ecco, allora questo vi dicevo, questo libro molto molto bello, di Seth Mal. Questo libro che parla di questo momento tragico della vita, veramente della vita degli abitanti di questa provincia, in particolare qui sono gli abitanti di Bolzano, che vivono questa vita distaccata, questa lingua separata, questa lingua divisa, non soltanto come parole, italiano e tedesco, ma anche come luoghi dove stare, come comunità, che non ci sono se non forse, come dicevo prima, nel gioco, dove il gioco può essere questa illusione, nel gioco, nel vero senso della parola, questa illusione di poter essere, di poter essere insieme per uno scopo. Il gioco è un'illusione, in fondo, e tutti i giochi. Questo è la vita di questa gente, proprio messa con questo tratto delicatissimo che non è, se non in alcune parti molto significative, non è assolutamente la solita storia della coabitazione coatta o non coatta di questa provincia. Ecco. Adesso io pensavo, se qualcuno di voi vuol chiedere qualcosa all'autore, visto che abbiamo la fortuna di averlo qui, perché mi sembrerebbe interessante. Dai, sa tu? Bisogna essere cattivi nella vita, no? Io me l'aspettavo. Impara ad aspettartelo. Io ho letto solo il primo capitolo. Vergognati. Cosa posso dire, Bruna? È che era proprio in cima alla lista dei libri che dovevo leggere e che sono rimasti fuori dalla mia tesi. No, perché? Adesso un perché. C'è un perché. C'è un perché cattivello, ma c'è un perché. Un perché cattivello? Perché Liza, questa fanciulla che voi vedete, che, no, che è la nostra ascoltatrice, ha fatto nella sua tesi un paragrafo, una parte, in fondo è così, no? Non è tutta, no? Facendo una buona parte, non lo so, di un discorso estremamente interessante su un lavoro di un'altra persona che, non essendo di qui, ha scritto una storia che può essere mi sembra di aver messo tutte le parti nel suo posto giusto, poteva essere una storia di qui, che è La Melandri, Eva dorme. Ecco. Lei ha fatto un suo lavoro su questa cosa qui, ecco. Allora, io ti volevo dire, sono felice che tu sia venuta, perché vedi che questa è letteratura, punto e basta. Ho detto la mia. Ecco, questa è letteratura. Adesso li ho tutti e due, li ho i tempi. Leggerai e dopo ci dirai, basta. Chiuso. Altre persone. Altre persone che vogliono dire qualcosa? Ma scusa, ho capito bene, quindi lei ha scritto una tesi su Eva dorme, su... Sì e no, anche, dillo tu. Non è che volessi parlare, però, perché no? Grazie. È una tesi che ho presentato a luglio a Bologna e tra l'altro ho anche già presentato qui alla Claudia Augusta, perché sono tra i vincitori del premio annuale Claudia Augusta. E è una tesi che, limitatamente alle mie possibilità e al tempo che avevo e a quello che mi ha concesso di fare il relatore, perché c'è anche questo aspetto da considerare, voleva essere una disamina, una specie di ricognizione sul panorama letterario locale. Cioè io volevo studiare questa provincia dal punto di vista della sua letteratura, che è un po' la mia materia, e sono partita chiedendomi come mai ci fosse una sproporzione numerica di importanza, di rilevanza, anche di qualità, tra i libri, soprattutto romanzi, devo dire, cioè cercavo il romanzo scritto in lingua tedesca e quelli scritti in lingua italiana, cioè banalmente perché non ci sono autori italiani. Era appena uscito Eva dorme, quindi mi sembrava bello. Ecco, io ho fatto, sì, ho dovuto scegliere poi anche tra gli autori, perché non potevo farli tutti, quindi non è un'enciclopedia, è una tesi di laurea, e mi sono concentrata su Josef Zoderer e Klaus Gatterer per la parte tedesca, ma anche perché dovevo poi proporli al relatore, e quelli erano tradotti in larga parte, il mio relatore non era germanofono, però Seth Mann lo amo molto, insomma. E studiando, per farla molto breve poi taccio, io mi sono accorta che Eva dorme ecco, non era quello che io pensavo fosse all'inizio. Ecco, brava, così hai fatto bene, sei brava. No, ma insomma adesso, io l'ho detto anche in tante occasioni. Ecco, noi non abbiamo scritto tesi su questo libro, forse altri anche sono giunti a questa conclusione. No, ecco, che non mi è punto primo, non mi è sembrato un libro di grande qualità, ve lo dico subito, un libro che non ha, secondo me, qualità di scrittura, ma soprattutto a sostegno delle mie spiegazioni, sul fatto che non esistono autori italiani, c'è anche il fatto che io ho trovato delle concordanze testuali, insomma, sai, lì è molto difficile da discutere, però devo dire, partendo, secondo me non è un libro sull'Alto Adige di ispirazione autonoma scritto da un'italiana, ecco. Allora ci sono le voci dei tedeschi, che sono tante, dei tedescofoni, come vogliamo, dei sudtirolesi, come li vogliamo chiamare. E sono tanti e sono bravi, ci sono uomini, ci sono scrittrici donne come la Sabine Gruber, la Helene Flöss, e mi sembra che abbiano proprio le loro voci, ognuno la sua, e però mi sembrava che mancassero rappresentanti italiani. Ecco, a me sembra che questa storia dei calchi, delle concordanze testuali, voglia dire che, insomma, tutt'oggi uno scrittore italiano, una scrittrice italiana non ci siano. Basta questo. E però Seth Mal mi incuriosisce, perché siccome era stata un po' ripresa dai giornali questa notizia, c'è stata poi una replica sul Corriere dell'Alto Adige di un ordinario di Milano, di un germanista, che ha detto che mi ha scritto che sono ignorante, che non conosco l'intertestualità e la filologia, perché e che oltretutto ho anche letto poco, perché se io avessi letto di più e avessi letto Wundrender, avrei per esempio visto che c'è un'altra cosa che coincide, che è questa che avete nominato prima della morte per esplosione dell'ordigno, che c'è anche in Eva dorme. Allora, e poi una cosa di Helene Flöss, e allora mi sono chiesta, ma è strano dirmi che Eva dorme non è un libro che ha pescato dagli autori tedeschi, facendomi esempi di altri di concordanze che non ha trovato, e quindi adesso io devo capire quanto devo prenderci. Ascolta, è una freccia a favore della Melandri, ma che sì, devo prego. Farla, e la faccio senz'altro volentieri. Ha scoperto la Melandri nel suo secondo libro, questo, non questo di Eva dorme, l'altro, ecco, ha scoperto veramente il discorso della lingua tagliata di nuovo, cioè del fatto che sono le vittime, perché il secondo libro parla delle vittime, Cristi, parla delle vittime e non dei carnefici in definitiva, perché è la storia di questi due personaggi che vanno a trovare i relativi marito e moglie che sono in prigione per motivi diversi, non c'entra in questo caso nessun niente di questo tipo, però è il discorso delle vittime, e qui sicuramente e ti dico a favore della Melandri, lei ha scoperto che il discorso delle vittime è molto più importante di quello dei carnefici. Scusate, dica. A me mi ha colpito il discorso che faccio del ragazzo che non riesce a parlare. Certo, sì. No. Io penso che sia un problema tutt'oggi anche reale di persone che non riescono ad esprimersi e arrivano anche a fare atti violenti per farsi capire, per farsi sentire, no? Sì. Addirittura anche nella Bibbia ci sono casi in cui che Mosè ha mandato il fratello Aronne a parlare al posto suo, non era capace di parlare, sì. E non era capace di esprimersi per salvare certo. Il popolo ebraico, no? Certo. E questi modi di che le persone non riescono ad esprimersi sono il male della società contemporanea, anche con tutti quanti i mezzi che abbiamo di potersi esprimere, però la maggior parte delle volte le parole vanno al vento, non arrivano mai alla comunicazione, arrivare, no? Certo, quello che dovrebbe essere sì. Lo scopo della lingua, eccetera. Sì. E allora mi ha fatto piacere, insomma, dire queste cose qua, no? Grazie. Questo grazie. Aspetto, se posso dire una cosa, questo aspetto è un aspetto fondamentale del libro. Nel libro, non è un libro sugli anni 60, non è il libro sulle bombe, non è il libro sugli italiani e i tedeschi, ma secondo me soprattutto sulla comunicazione, sul non comunicare, sul non poter o non voler comunicare, perché c'è sì, per esempio volere, questo padre di Paul che non vuole raccontare niente ai suoi figli. Questo secondo me è un aspetto. E poi mi ha fatto notare una lettrice. Mi ha detto, Sepp, tu fai morire quelli, in questo libro tu fai morire quelli che non o non vogliono parlare o che non sanno parlare. E poi, questo non l'ho l'hai fatto scrivendo, soltanto dopo. È la colpa del padre anche, il padre che non ha insegnato sì. Al figlio Sì, ma è la colpa dei padri comunque, lei ha tirato fuori il discorso più, in fondo quello che è lo scopo della collana in fondo è che in fondo le colpe dei padri non sono state ancora, non si sono ancora rimarginate, nel senso che le ferite inferte dalle colpe dei padri in questo caso non sono ancora del tutto rimarginate e in fondo non lo sono ancora del tutto, anche se, come dico, chiaramente io che sono vecchia, ho vissuto profondamente questi momenti e li ho vissuti sotto tutti gli aspetti, anche sotto gli aspetti del quasi non, veramente non essere in grado di parlare, ma non capire come non ci fossero mezzi, come non ci fossero stati o non ci siano, non continuano ad essere mezzi per poter comunicare, perché i mezzi ci sono, ci dovrebbero essere per poter comunicare. Ecco, questo è quanto più o meno. Altre domande? Se no vi lasciamo. Perché la tematica del non parlare della lingua tagliata era così urgente nel... Posso chiederle la cosa partita, sì, ma se si può dire? Non so rispondere. Purtroppo non so rispondere. Forse anche un, fino ad un certo punto, un problema mio. Cioè questo. Io penso che sia lo spezzamento della lingua, che erano spezzate in centinaia di dialetti, in centinaia di accenti. La lingua stessa che si spezza in mille modi, per cui la gente fa fatica poi a comunicare. Io penso che sia quello. Sì, forse sì, se posso permettermi. C'è un'altra cosa che non c'entra proprio niente, ma in qualche modo c'entra. In fondo la tendenza di un poeta, se male è un poeta, e, o chi lavora, veramente lavora con la lingua, è addirittura quella di non di superare questa barriera della lingua per arrivare al massimo della sonorità, che se permettete è il silenzio. Ecco, questa è la tendenza, e in questa angoscia del non saper comunicare, non saper comunicare a livelli altri, a livelli alti, forse è questo in fondo, perché i più grandi, io dicevo Canetti, ma comunque è lunghissima la letteratura che parla di questa lingua tagliata, soprattutto la parte di gente che in qualche modo ha ragione, che di lingue ne parla tante, come Canetti stesso. E allora questo arrovellarsi, questo dire porca miseria, però in questa lingua qui si dice meglio, è più sottile questo discorso, in quest'altra lingua non viene così bene, cioè questa, e poi scegliere, come in fondo parlavo di nuovo di Canetti, questo scegliere una lingua terza, una lingua altra, per potersi esprimere, per potersi tradurre, per arrivare a tradurre se stessi, cioè usare un filtro addirittura nella propria lingua. Scusate, è una divagazione, ve l'ho detto, comunque mi sembrava così, un'osservazione. Sai? Io aggiungerei che il tema dell'incomunicabilità è anche un fil rouge che attraversa tutte le opere, correggimi se sbaglio, di Sepp Mal, da Verwachsene Wege, Brüder, fino anche all'ultimo romanzo Berliner Zimmer. È un non riuscire a comunicare al di là delle barriere linguistiche, al di là dei problemi di proprio anche meccanici. È un problema, come lo vogliamo definire, psicologico, sì, di non riuscire ad esprimere le proprie, sì, propri pensieri. Poi chiaramente i motivi possono essere molti, sì, ma questa è una cosa che deve rimanere aperta. Però c'è sempre questo tema di incomunicabilità fra genitori, sì, e figli. Anche questo poi. Se si vuole un altro, sì, certo. Poi non solo questo dietro, qua io parlo qui della nostra terra, parlo di qui, non di in altri posti, ma in altri posti è più o meno uguale. Questa tradizione antica nella quale la comunicazione anche con le forze della natura era grande, e anche quella è stata tagliata, anche questa capacità di comunicare, che è quello di comunicare con gli alberi in questo libro, comunque anche quella purtroppo è stata tagliata. E allora tutte queste ferite, noi viviamo veramente al margine di queste ferite, cercando di ritagliarci una forma di comunicabilità, è quella che è, speriamo che sia meglio di quello che non sembra. Ecco, non so se avete altro da dire. Ci siete stufi? Mi guardi, no, però. Avete altro da chiedere? No, qualcuno? Dimmi. La mia piccola esperienza. Io a 5 anni sono venuta a Bolzano, da Venezia. Il papà è stato trasferito. Io sono nata nel 29, quindi era il 34, con una sorellina più piccola. Nessuno ci insegnava il tedesco. abitavamo tra italiani, quindi, e noi ci siamo inventate, io e mia sorella, giocando, un tedesco nostro. E ci sedevamo sul divano e dicevamo tic toc tic toc, e tic toc tic toc era l'unica cosa che sentivamo dire sempre, e ci divertivamo da matte, convinte di parlare in tedesco. È stata, mio figlio ha fatto tutte le scuole in lingua tedesca, i miei nipoti hanno fatto tutte le scuole in lingua tedesca, perché quello che è mancato a noi venuti qui, e nessuno ha sentito il bisogno di dire bambini capite tic toc, e con le valigie partivamo ed eravamo due signore tedesche, e questa era la nostra lingua. Molto bello, sì, no, molto bello. Poi a scuola ho studiato inglese e francese, il tedesco che so me lo so tanto per conto mio, però mi è sempre mancata questa difficoltà di, i bambini con i quali giocavo erano italiani. Non c'era nessun contatto, anche volendo, anche alle superiori ho scelto inglese, francese, il tedesco non serve, questa era la nostra, e hanno sbagliato anche con noi molto, certamente, molto. Certamente. L'abbiamo fatta dicevamo le gioco, colpe, no? Dei padri, comunque sì. È vero, sì, è vero. Non bello era questo. Colpa dei genitori, poveretti. No, ma no, no, era colpa anche delle situazioni, nessuno adesso non stiamo a fare. Mia mamma aveva parlato di colpa di abbiamo... questo era il tedesco di mia madre. Era molto autoritario per questo. Sì. No, proprio briciole di portate via. E questo è stato male. Certo, certo, e dopo tantissimi anni così, tanti anni, dalla 14-18. Siamo ancora qui a raccontarci queste cose. Beh, grazie. L'editore, dico, per fortuna, la letteratura, io sono contro la pacificazione, come dire, interiore, perché in realtà da queste vengono fuori le storie da pubblicare. No? Bellissimo, bellissimo. Grazie all'editore, grazie davvero, perché veramente ti ringrazio profondamente, perché sei stato capace di fare delle cose grandi. Grazie. Naturalmente grazie all'autore che ha scritto un libro bellissimo, uno dei suoi libri è bellissimo, tutti gli altri anche. Grazie.